Un racconto al giorno, sesta puntata. L'incipit che andremo a leggere è tratto dal testo Hanno tutti ragione, di Paolo Sorrentino. Prefazione del maestro Mimmo Repetto, scritta all'aurora del giorno in cui ha compiuto 100 anni. Tutto quello che non sopporto ha un nome. Non sopporto i vecchi, la loro bava, le loro lamentele, la loro inutilità. Peggio ancora quando cercano di rendersi utili, la loro dipendenza. I loro rumori, numerosi e ripetitivi, la loro aneddotica esasperata, la centralità dei loro racconti, il loro disprezzo verso le generazioni successive. Ma non sopporto neanche le generazioni successive. Non sopporto i vecchi quando sbraitano e pretendono il posto a sedere in autobus. Non sopporto i giovani, la loro arroganza, la loro ostentazione di forza e gioventù. La prosopopea dell'invincibilità eroica dei giovani è patetica. Non sopporto i giovani impertinenti che non cedono il posto ai vecchi in autobus. Non sopporto i teppisti, le loro risate improvvise, scosciate ed inutili. Il loro disprezzo verso il prossimo diverso. Ancora più insopportabili i giovani buoni, responsabili e generosi, tutto volontariato e preghiera, tanta educazione e tanta morte, nei loro cuori e nelle loro teste. Non sopporto i bambini capricciosi e autoreferenziali e i loro genitori ossessivi e referenziali solo verso i bambini. Non sopporto i bambini che urlano e che piangono, e quelli silenziosi mi inquietano, dunque non li sopporto. Non sopporto i lavoratori e i disoccupati e l'ostentazione melliflua e spregiudicata della loro sfortuna divina, che divina non è, solo mancanza di impegno. Ma come sopportare quelli tutti dediti alla lotta, alla rivendicazione, al comizio facile e al sudore diffuso sotto l'ascella? Impossibile sopportarli. Non sopporto i manager e non c'è bisogno nemmeno di spiegare il perché. Non sopporto i piccoli borghesi, chiusi a guscio nel loro mondo stronzo, alla guida della loro vita la paura di tutto ciò che non rientra in quel piccolo guscio. E quindi snob, senza conoscere neanche il significato della parola. Non sopporto i fidanzati perché ingombrano. Non sopporto le fidanzate perché intervengono. Non sopporto quelli di ampie vedute, tolleranti e spregiudicati. Sempre corretti, sempre perfetti, sempre ineccepibili. Tutto consentito, tranne l'omicidio. Li critichi e loro ti ringraziano della critica. Li disprezzi e loro ti ringraziano bonariamente. Insomma, mettono in difficoltà perché boicottano la cattiveria. Quindi sono insopportabili. Ti chiedono come stai e vogliono saperlo, veramente. Uno shock. Ma sotto l'interesse disinteressato da qualche parte covano coltellate. Ma non sopporto neanche quelli che non ti mettono mai in difficoltà, sempre obbedienti e rassicuranti, fedeli e ruffiani. Non sopporto i giocatori di biliardo, i soprannomi, gli indecisi, i non fumatori, lo smog e l'aria buona, i rappresentanti di commercio, la pizza al taglio, i convenevoli, i cornetti con la cioccolata, i falò, gli agenti di cambio, i parati a fiori, il commercio equo e solidale, il disordine, gli ambientalisti, il senso civico, i gatti, i topi, le bevande analcoliche, le citofonate inaspettate, le telefonate lunghe, coloro che dicono che un bicchiere di vino al giorno fa bene, coloro che fingono di dimenticare il tuo nome, coloro che per difendersi dicono di essere dei professionisti, i compagni di scuola che dopo 30 anni ti incontrano e ti chiamano per cognome. Gli anziani che non perdono mai occasione di ricordarti che loro hanno fatto la resistenza. I figli sprovvisti che non hanno nulla da fare e decidono di aprire una galleria d'arte. Gli ex comunisti che perdono la testa per la musica brasiliana. Gli svampiti che dicono intrigante, i modaioli che dicono figata e derivati, gli sdolcinati che dicono bellino, carino, stupendo, gli ecumenici che chiamano tutti amore, certe bellezze che dicono ti adoro, i fortunati che suonano ad orecchio, i finti disattenti che quando parli non ascoltano, i superiori che giudicano, le femministe, i pendolari, i dolcificanti, gli stilisti, i registi, le autoradio, i ballerini, i politici, gli scarponi da sci, gli adolescenti, i sottosegretari, le rime, i cantanti rock attempati coi jeans attillati, gli scrittori boriosi e seriosi, i parenti, i fiori, i biondi, gli inchini, le mensole, gli intellettuali, gli artisti di strada, le meduse, i maghi, i VIP, gli stupratori, i pedofili, tutti i circensi, gli operatori culturali, gli assistenti sociali, i divertimenti, gli amanti degli animali, le cravatte, le risate finte, i provinciali, gli aliscafi, i collezionisti tutti, un gradino più in su quelli di orologi, tutti gli hobby, i medici, i pazienti, il jazz, la pubblicità, i costruttori, le mamme, gli spettatori di basket, tutti gli attori e tutte le attrici, la videoarte, i Luna Park, gli sperimentalisti di tutti i tipi, le zuppe, la pittura contemporanea, gli artigiani anziani nella loro bottega, i chitarristi dilettanti, le statue nelle piazze, il baciamano, le beauty form, i filosofi di bell'aspetto, le piscine con troppo cloro, le alghe, i ladri, le anoressiche, le vacanze, le lettere d'amore, i preti e i chierichetti, le supposte, la musica etnica, i finti rivoluzionari, le telline, i panda, l'acne, i percussionisti, le docce con la tenda, le voglie, i calli, i soprannobili, i nei, i vegetariani, i vedutisti, i cosmetici, i cantanti lirici, i parigini, i pullover a collo alto, la musica al ristorante, le feste, i meeting, le case col panorama, gli inglesismi, i neologismi, i figli di papà, i figli d'arte, i figli dei ricchi, i figli degli altri, i musei, i sindaci dei comuni, tutti gli assessori, i manifestanti, la poesia, i salumieri, i gioiellieri, gli antifurti, le catinine d'oro giallo, i leader, i gregari, le prostitute, le persone troppo basse o troppo alte, i funerali, i peli, i telefonini, la burocrazia, le installazioni, le automobili di tutte le cilindrate, i portachiavi, i cantautori, i giapponesi, i dirigenti, i razzisti e i tolleranti, i ciechi, la formica, il rame, l'ottone, il bambù, i cuochi in televisione, la folla, le creme abbronzanti, le lobby di gli slang, le macchie, le mantenute, le cornucopie, i balbuzienti, i giovani vecchi e i vecchi giovani, gli snob, i radical chic, la chirurgia estetica, le tangenziali, le piante, i mocassini, i settari, i presentatori televisivi, i nobili, i fili che si attorcigliano, le vallette, i comici, i giocatori di golf, la fantascienza, i veterinari, le modelle, i rifugiati politici, gli ottusi, le spiagge bianchissime, le religioni improvvisate e i loro seguaci, le mattonelle di seconda scelta, i testardi, i critici di professione, le coppie, lui giovane, di lei matura e viceversa, i maturi, tutte le persone col cappello, tutte le persone con gli occhiali da sole, le lampade abbronzanti, gli incendi, i braccialetti raccomandati, i militari, i tennisti scapestrati, i faziosi e i tifosi, i profumi da tabaccaio, i matrimoni, le barzellette, la prima comunione, i massoni, la messa, coloro che fischiano, coloro che cantano all'improvviso, i rutti, gli eroinomani, i Lions Club, i cocainomani, i Rotary Club, il turismo sessuale, il turismo coloro che detestano il turismo e dicono che loro sono viaggiatori, coloro che parlano per esperienza, coloro che non hanno esperienza e vogliono parlare lo stesso, chi sa stare al mondo, le maestre elementari, i malati di riunione, i malati in generale, gli infermieri con gli zoccoli. Ma perché devono portare gli zoccoli? Tutto si sente mormorio, non ti scordò, non ti scordò, non ti scordò perché sta vita se ne va, non ti scordò mai, perché... Non sopporto i timidi, i logorroici, i finti misteriosi, I goffi, gli svampiti, gli estrosi, i vezzosi, i pazzi, i geni, gli eroi, i sicuri di sé, i silenziosi, i valorosi, i meditabondi, i presuntuosi, i maleducati, i coscienziosi, gli imprevedibili, i comprensivi, gli attenti, gli umili, gli esperti, gli appassionati, gli ampollosi, gli eterni sorpresi, gli equi, gli inconcludenti, gli ermetici, i battutisti, i cinici, i paurosi, i tracagnotti, i litigiosi, i superbi, i flemmatici, i millantatori, i preziosi, i vigorosi, i tragici, gli svogliati, gli insicuri, i dubbiosi, i disincantati, i meravigliati, i vincenti, gli avari, i dimessi, i trascurati, gli sdolcinati, i lamentosi, i lagnosi, i capricciosi, i viziati, i rumorosi, gli untuosi, i bruschi e tutti quelli che socializzano con relativa facilità. Non sopporto la nostalgia, la normalità, la cattiveria, l'iperattività, la bulimia, la gentilezza, la malinconia, la mestizia, l'intelligenza e la stupidità, la tracotanza, la rassegnazione, la vergogna, l'arroganza, la simpatia, il doppio giochismo, il menefreghismo, l'abuso di potere, l'inettitudine, la sportività, la bontà d'animo, la religiosità, l'ostentazione, la curiosità e l'indifferenza, la messa in scena, la realtà, la colpa, il minimalismo, la sobrietà e il eccesso, la genericità, la falsità, la responsabilità, la spensieratezza, l'eccitazione, la saggezza, la determinazione, l'autocompiacimento, l'irresponsabilità, la correttezza, l'aridità, la serietà e la frivolezza, la pomposità, la necessarietà, la miseria umana, la compassione, la tetraggine, la prevedibilità, l'incoscienza, la capziosità, la rapidità, l'oscurità, la negligenza, la lentezza, la medietà, la velocità, l'ineluttabilità, l'esibizionismo, l'entusiasmo, la sciatteria, la virtuosità, il dilettantismo, il professionismo, il decisionismo, l'automobilismo, l'autonomia, la dipendenza, l'eleganza e la felicità. Non sopporto niente e nessuno, neanche me stesso, soprattutto me stesso. Solo una cosa sopporto, la sfumatura. Che poi non ce ne eravamo neanche accorti, ma è cominciato tutto perché qualcuno aveva talento, purtroppo. Io. Che altro dire? Uno passa un sacco di tempo a dirsi, va bene, ma quello mica va bene, quasi mai. E chiuderei qui prima ancora di cominciare, se non fosse che questa vanità malsana galoppa dentro di me più veloce di me. Mi piacerebbe essere limpido, ma non servirebbe a nulla. 3 conati di vomito e queste pallette piccoline di sudore freddo e giallognolo che mi accarezzano la fronte bassa. La mia fronte bassa. La fronte bassa di me. Di Tony Pagoda, alias Tony P. Con questi 44 anni carichi e feroci, che me li porto dietro e non li conto, che se li conto soffro assai. Perché uno per tutta la vita vorrebbe essere ragazzo, mica uno scherzo invecchiare. Non credo proprio. Comunque bisogna pure sbrigarla alla pratica dell'esistenza, a forza di derapate lente. Niente, io sono uno di quelli che per ingorditi etichette deficiente viene definito un cantante da night. Però io non sono un'etichetta, io sono un uomo. Ma che dire col senno di poi? Non era meglio essere un'etichetta? Mi sconfinfero in questo lussuoso camerino, grande quanto il salone della mia casa napoletana, con questi velluti rossi che mi stonano l'esistenza, mentre aspetto di tenere il concerto più importante di questa mia sontuosa carriera che, tutti lo sanno, ho costruito pezzetto pezzetto. Mi inginocchio e cerco di arginare l'acqua minerale che scalpita per risalire dallo stomaco al catino. Segno della croce, mani congiunte, grassocce e farcite di anelli d'oro. I palmi si attaccano come calamite sudaticce. Sono fradicio di me stesso adesso. Prego, spodestando i lontani ricordi della prima comunione. Ma niente, neanche un modesto paternoster. D'altro canto la cocaina, se te la fai per lungo tempo, tutti i santi giorni, te la massacra la memoria. Altro che, e non solo quella. E io la coca me la prendo allegramente, senza tregua, da 20 anni. Poi ti racconti che non è così. Nel quartiere della mente consideri la memoria un reduce resistente. Aggredisci l'evidenza, è calata la suggestione, un sipario di polvere. Lo stupore, anche, ma sono bagliori rallentati, il fetore della novità ad un tratto. È così che ti cominciano dei dolori atroci. Succhi ai limiti e ti ritrovi distrattamente davanti, moscia e genuflessa, la tua anima, questo monumento invisibile. Ma mica la cavi fuori così, una preghierina, ma che? Però mi ricordo una frase che disse una volta una giornalista: con le tette non c'è male. Se a Sinatra la voce l'ha mandata il Signore, allora a me, più modestamente, l'ha mandata San Gennaro. Questo dissi. A quei tempi ero in vena di presunzioni, a macchia di leopardo. E se mi va bene questo concerto, lo posso essere anche adesso un bel presuntuoso. Mi rialzo e un altro conato mi acchiappa come in un rodeo. Sento che mi sale su il gin tonic numero 3. No, niente coca quando canto. È roba che se la può permettere Mick Jagger, che urla, corre e scoletta. Io invece canto. Io devo sentire la papilla che mi sbatte come un rullante, la corda vocale che oscilla, che poi è la mia chitarra. E questo conato c'ha origini precise, poiché lì fuori, in prima fila, nella maestosità della Radio City Music Hall, strozzato dall'alcol e dall'esperienza, c'è proprio lui, The Voice, pronto ad ascoltare me, questo napoletano sconosciuto negli States, ma che in Italia, Germania, Russia, Spagna, Belgio, Olanda, Brasile, Argentina e Venezuela pare che faccia faville a colpi di mitragliate di LP venduti. A colpi di mitragliate, altro che. Mi aspettano. Se c'è una cosa che so fare bene in questa vita è farmi aspettare. Fatti i conti, lo so fare talmente bene che poi non arriverò. Ma questa è un'altra storia. È un applauso che puzza di nostalgie tipo Sole Mio e Monasteri e Santa Chiara, quelle che il pubblico di sessantenni italo-americani butta addosso al palcoscenico, ancora vuoto, in attesa del solito ingresso trionfale. Il mio. È un pubblico, questo degli italo-americani, che conosco come le mie pacche. Un pubblico nutrito a colpi di antenne direzionate sulla TV italiana, allevato a sciabolate di rigurgiti di malinconia. C'è da fidarsi di questa gente. Il mio pianista storico, Rino Pappalardo, mi squilla e mi bussa alla porta del camerino con mano allenata e densa di un corno rosso scacciaiello. E ora? Arrivo subito, sibilo, con una sola corda vocale, mentre mi analizzo la pancia nuda e deformata, gonfia e pelosa. Mi sbircio allo specchio con l'occhietto orgoglioso che tante girls ha demolito e noto con una puntina di preoccupazione che ora proprio non ci voleva, cazzo, che quell'occhietto marrone si è fatto rugoso e inopportuno, ma sempre furbo e opportunista, cinico e romantico allo stesso tempo. A fiato trattenuto mi esercito a tirarlo dentro questo gonfiore. Con risultati desolanti. Rincalzo la camicia di seta dello smoking, poi mi guardo deciso allo specchio delimitato da troppe lampadine bianche, ieratico e speranzoso come sono di carattere, ed è un'orgia di emozione, paura, angoscia ed eccitazione. Rino insiste, bussa nuovamente. Eccomi sorelle, sto arrivando, dico io, mentre prendo di petto frettoloso il gin tonic numero 4.